llanto de alegría per una nuova compagnia per te. Buona fortuna per un anno in più, per quello che vuoi tu, per le notti piene di dei e di dolci malinconie. Buona fortuna che non basta mai a te, che te ne vai per un bacio dato via, per un amore chiuso per addio. Buona fortuna per quel po' di me che porterai con te. Se quella per la vita che se ne va, buona fortuna che non basta mai a te, che te ne va. Te ne vai per